America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. In realtà da New York, da un posto molto particolare di New York, da Tweed. Tweed è il dipartimento dell'education, dell'educazione qui in città, su Chamber Street, dietro la residenza del sindaco, dietro la municipalità di New York. Sono venuto qui per incontrare Dennis Walcott, che è il chancellor del dipartimento dell'education, per incontrare un gruppo di ragazzi che hanno vinto il Palazzo Strozzi High School Renaissance Award, che è un premio organizzato dalla Foundation Palazzo Strozzi di New York, con cui per trasparenza naturalmente lo dico, con cui ho lavorato e ho aiutato a preparare questo premio, un premio che vuole identificare in delle scuole difficili della città dei ragazzi, degli adolescenti che partecipino a un concorso in cui si deve scrivere un tema sul Rinascimento. Chi vince, i ragazzi che vincono, vengono in Italia, vanno a Firenze, studiano a Villa La Pietra, a NYU, il Rinascimento, e poi girano per Firenze, per Venezia, per Roma. È un programma interamente finanziato da filantropi americani che hanno donato i soldi per poter dar loro l'opportunità di fare quello che loro coetanei fanno normalmente, ma che a loro non sarebbe mai concesso, permesso, per ovvie difficoltà. E dunque ho chiesto al Chancellor Dennis Walcott che cosa significa secondo lui questo per questi ragazzi. Find ways, which I imagine you're already doing, to use the knowledge that you gained. Ecco, Walcott dice che non soltanto è una cosa straordinaria per loro, perché non avrebbero mai questa opportunità, li può aiutare poi a entrare in un college migliore, ma vuole dare un messaggio particolare a questi ragazzi e a quelli che lo faranno in futuro, e cioè che, avendo partecipato a questa esperienza, debbono condividerla con gli altri studenti, con i loro amici, e soprattutto devono farne un tesoro per quello che sarà la loro vita futura in termini di insegnamento su un punto specifico, che lavorando e cercando di raggiungere degli obiettivi si possono conquistare delle mete. Loro l'hanno conquistata e Walcott, devo dire, è stato molto carino con questi ragazzi e ha confermato la partnership che il Dipartimento per l'Educazione ha con la Palazzo Strozzi Foundation. The thing that stood out the most is that these kids have the experience to realize, despite maybe the background and certain scenarios that they may come from, that there are still opportunities out there. Era Ashley, l'avete sentita, una delle insegnanti che ha accompagnato i ragazzi nel viaggio a Firenze, e la cosa che l'ha colpita di più è che questi ragazzi, che studiano in scuole diciamo non privilegiate, come si dice qui in politically corrected term, quindi in delle scuole difficili, in quartieri difficili, nel Bronx, nel Queens, a Brooklyn, sono dei ragazzi che sono riusciti a tirarsi fuori, e dice Ashley, la cosa importante è che si rendono conto che ci sono delle opportunità, questa opportunità l'hanno potuta raccogliere, si rendono conto che c'è la possibilità di realizzare un sogno, e per loro, che spesso non si sono mossi dal loro quartiere, che non hanno, alcuni di loro mai preso un aereo, l'idea che potesse esserci questa possibilità di partecipare a un concorso sul Rinascimento, vincere questo concorso e stare per un mese in Italia, beh, è una cosa che secondo lei sicuramente gli dà l'idea che il lavoro viene compensato. Abbiamo qui Brian, che è l'altro insegnante. Brian, where do you teach? I teach at DeWitt Clinton High School. Which is where? In the Bronx. Brian insegna nella DeWitt Clinton School, che è nel Bronx, a New York, una scuola non facile. E Brian ha aiutato a selezionare questi ragazzi e poi è venuto con loro a Firenze. Devo dire, i due ragazzi della sua scuola erano davvero promettenti e straordinari. Ma c'è una cosa interessante e curiosa che vorrei chiedere a Brian, perché mi ha raccontato che quest'anno lui sta insegnando in una cosiddetta locked up classroom. It's called the lockdown program, as a nickname, somewhat like being locked down in jail, because these students, as high school students, are restricted to one classroom and are not permitted or supposed to leave that one classroom for the entire day. E quindi è come se questi ragazzi fossero, come dire, incarcerati dentro questa classe. Entrano dentro, li chiudono dentro e stanno soltanto in quella classe durante tutto il giorno. Le scuole superiori americane sono tali che ci si muove di classe in classe. Per esempio, se si fa chimica si va nel laboratorio di chimica, poi da lì si va nella scuola, nella classe di storia. Invece questi ragazzi vengono messi soltanto in una classe e sono dei ragazzi che sono chiusi in queste classi perché vengono da centri di detenzione giovanile o addirittura da Rikers Island. Rikers Island è leggendaria perché è il carcere dove non soltanto ragazzi ovviamente, ma i criminali che vengono arrestati a New York vengono immediatamente trasferiti in attesa di giudizio. First when I heard about it, I was a little bit nervous and questo è Fernando Gualagacci che viene da un paesino dell'Ecuador, è arrivato qui a 5 anni nel 2000, figlio di immigrati, la madre fa la domestica, il padre disoccupato, eppure riuscito a tirarsi fuori in una di queste scuole molto difficili, uno dei più bravi, dei migliori, e ha vinto la Palazzo Strozzi High School Renaissance Award. Ecco, ho con me due ragazzi di The Whit Clinton High School, Stacy e Ramon, e comincio con Ramon. I hear that Clinton, the Whit School, can be pretty rough, is that right? Rough and dangerous. Ecco, dice non soltanto rough, ma anche pericolosa, dura e pericolosa. E vorrei parlare con Stacy, perché Stacy è una ragazza straordinaria, anche lei che ha una particolarità. Scrive rap song sulle materie che studia. E quindi le chiederei innanzitutto di farci una piccola rap interpretation. Stacy, go ahead. The Shang was like the Big Bang in China. It started off everything. And the Shang Dynasty was a mystical age. And if you were over there, you see bones and sage. The Suits used the mandate to take over the Shang. And then they did everything they can to make China a better place. And then they conceded it with its face. Ecco, questa è una interpretazione rap della storia. Forse non l'avete sentita nel dettaglio, ma parlava della Cina, parlava di rapporti internazionali ed erano tutti sotto forma di rap. Ed è in questo modo che Stacy si presenta ai professori e con questa sua amica recita queste poesie, chiamiamole, come compito a casa. Thank you, Stacy. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, avete ascoltato Stacy che fa rap songs per fare i suoi compiti a casa e per presentarsi poi a scuola con una composizione che prepara con una sua amica. E dunque vi faccio ascoltare una rap song di Eminem scelta da Stacy, When I'm Gone. I'm looking down, you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down, you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down, you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.